fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Ed eccoci qui, ritornati sempre in diretta su Resto Radio Convento. Diretta che non si ferma, soprattutto non si ferma la possibilità di ospitare i nostri festeggiati, farci raccontare da loro, dalla loro viva voce e dai loro vivi occhi, come sta andando la serata, cosa succede e soprattutto il perché si trovano qui. Abbiamo un gruppo di ragazze, come potrete vedere eventualmente dalle nostre telecamere, ma soprattutto sentire a brevissimo, che intanto mi ha colpito il fatto che abbiano scelto praticamente tutto il bianco come colore. Non so se è un concordato o casuale. Ah, voluto, bene, bene, bene. E soprattutto anche lei, la protagonista, la nostra futura sposa, che già lo accennavamo a inizio serata, tutta di bianco, quindi è una tradizionalista, me lo raccontava, adesso lo facciamo raccontare anche da lei e andiamo a conoscerla un po' meglio. Allora, benvenuta intanto. Grazie, benvenuti. Sì, sì, no, così ti sentiamo bene. Sì, sei più vicino. Così. No, no, poi facciamo anche lei, non vede l'ora di parlare, poi facciamo fare un monologo anche alla sua amica che ha... Buonasera a tutti, e sono qui con le mie amiche in occasione dell'addio nubilato. Bello. E adesso ve le presenterò. Beh, intanto presentati tu, insomma, sappiamo che tu no. Allora, io sono Irene, la sposa, poi sono Teresa, Sonia, Giulia, Katia, Edera, Chiara. Ma che bello, come sono tutte disciplinate, ognuna che dice. No, mi ha colpito cosa? Edera? Come la pianta. Sì, la pianta. E come mai? Bellissimo come nome. Viene da una telenovela. Ma va. Sì, negli anni 90 c'era una telenovela e si chiamava Edera. Bellissimo. E i tuoi, immagino che tu. Presa da lì. Tutto il tempo a guardarla, a raccontarsi il finale. No, pensavo che volessero una pianta e invece è arrivata una figlia e quindi hanno detto no, vabbè, ci sta. No, però mi piace questa cosa, tra l'altro mai sentita, proprio come nome, mai sentito in vita mia, sia la telenovela che il nome. Bello, bello, mi ha colpito. Pensavo avessi preso in giro dicendo un nome falso a caso, invece no. Bello, bello, complimenti. Allora, dai, da dove venite? Da Boica, io da Boica. Che sta dove? Perché c'è stato un qui pro quo durante la serata, perché ci siamo fermati tutti a chiederci se fosse un paese veramente esistente, quindi esiste, ci confermi che... Esiste Boica di Vestanova, diciamo, si trova nelle Alessinie, sui monti Alessini, ecco, è un paese di montagna, è tipo 850 metri, e 500 abitanti, è piccolo però si respira l'aria buona. Preparatissimo! Noi siamo belle persone, belle ragazze. E ecco, basta. Ma sembra quasi che dobbiate giustificarvi, che siate degli esseri umani anche voi. No, no, come mai? Belle persone, belle ragazze. Perché? Cosa c'è di male? Perché dicono che i montagnini non sono brave persone, no? No, perché in montagna si respira l'aria buona e quindi siamo brave ragazze. Mi piace questo atteggiamento da fisarmonica di Lenia, che non ha ancora capito che può anche stare ferma davanti al microfono. Cioè, lei parla... Ma sai perché? Perché lei è disciplinata, no? E quindi quando finisce di parlare si allontana. Quando deve riparlare si riavvicina e fa questa mossa da fisarmonica, un po' così, e bello, bello. Cioè, ma anche perché è una sorta di workout, cioè lei sta consumando calorie, no? Nel frattempo si tiene in allenamento, si tiene in forma. Tra l'altro c'è anche una specie animale che vi ha raggiunte dalla vostra valle, varie specie animali, questa soprattutto, diciamo che è anche con pelliccia, che sta mostrando la pelliccia, certo, bellissimo. E sappiate che per me è così tutti i sabati, e quindi capite la gioia di vivere questi momenti, e proprio l'emozione e il sentimento che c'è a volte, soprattutto perché anche alle mie spalle, nel senso che se fosse lì te ne accorgi, qua mi giro e vedo questo spettacolo e ne rimango sempre molto molto colpito. Allora, dicevamo, torniamo al motivo iniziale della nostra chiacchierata, cioè il colore bianco, che richiama fondamentalmente al colore classico del matrimonio, giusto? Infatti stiamo festeggiando il suo addio al nubilato e futuro matrimonio. Con chi ti sposerai? Con Marco. Con Marco, ok, quando? 4 maggio, benissimo. E dicevamo prima, ma mi piace che tu lo possa ripetere anche ai nostri microfoni qui in radio, del fatto che tu abbia scelto anche lo stesso colore per l'abito nuziale, e comunque ci tenga a questo discorso della ritualità, della tradizione da rispettare, insomma. Come mai? Raccontaci un po'. Adesso devi tornare là, devi parlare, quindi devi tornare. si era un attimo arenata sul cuscino, era comoda e quindi si è arenata. Perché l'abito bianco secondo me fa sposa e quindi essendo molto... Fa sposa, senti come... Sembra che sembri appena uscita dal salone del mobile di Milano, fa sposa. E ecco, quindi mi è sempre piaciuto la sposa, l'ho sempre vista in abito bianco. Sì, proprio quell'immaginario lì. Esatto. Guardavi anche tu, Ed, era come lei, che c'erano tutte le spose bianche, no? Niente, era una stupidata, perché sai che è proprio il coso da film, cioè la classica scena da film, la telenovela, cioè il cliché classico cinematografico, no? La sposa in abito bianco, che invece non tanto nel 2019, ma già da qualche anno si sta contrapponendo a quelle che si oppongono e vanno sul bordeaux, vanno sul verde, sul... no, invece... Secondo me la sposa deve essere bianco, sposa, punto. Il resto dei colori, magari un tocco di colore, quello sì. Ha un dettaglio, se quindi, essere, ok, magari, un dettaglio. Però il resto dei colori, carnevale, l'abito della sposa, bianco, forever. Non ci tiene molto a questa cosa, proprio sembra che stia facendo un comizio politico, no? Che stia convincendo gli altri. Bello, e come mai questa sera invece avete scelto questo colore, insomma, per rappresentarvi? Per lo stesso motivo o c'è anche... Devi chiedere alle mie amiche. Chiediamo a chi ha pensato. Ah, ok. Chi è che ha pensato? La sorella. Aspettiamo la stilista. Dov'è la stilista? Ah, ok. Per lo stesso motivo. Perché sapevate, insomma, del suo legame anche alla tradizione. Ok. Okay. Ma sei così anche nella vita o solo in questo ambito? Cioè sei una abbastanza schematica, abbastanza come dire, tradizionale? Beh, o? Sì, dai, in generale possiamo dire di sì. Possiamo dire di sì. E dov'è che sei? Dov'è che sei un po' più trasgressiva, tra virgolette, insomma, fuori dai binari? Non saprei in questo momento. No, niente, non una. Quando andiamo fuori a ballare, quando c'è la musica bella, allora lì sì. Balli. Balliamo, okay. Ok, quindi. Tipo latinoamericano, reggaeton. Ah, siete forti sul latinoamericano. Anche sull'afro, quelle robe lì. Ah, quelle siete forti. Ok. Hai altre passioni? No. Al di là del ballare. Nella normalità, sì, nella normalità. Esatto, okay. C'è una roba che prevale o no. Ok, non mi ricordo se ti ho chiesto se sono tutte tue amiche loro o qualche sì. Collega, parente. Tipo, allora lei, mia sorella. Ah sì, me l'avevi detto? Okay. E due mie cugine, il resto amiche. Ah, sì, e le due cugine. Fuori che non so perché sono rimaste fuori. Timidine. Ok, benissimo. Allora, vuoi, Ilenia, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Cos'è quella roba? È un vichingo. Ma anche prima. Ah sì, no, è perché è portatore di capello lungo e quindi può permettersi di. Ha detto che vi guarda. Cioè, ce l'ha. Che gli hai fatto? Io? Ce l'ha un po' con te. Sì, ti sta puntando. Che cosa hai fatto? Gli hai rubato il cocktail? Niente, mai visto in vita. Ah, vabbè. È venuto qua dal niente, ha sfrasciato i capelli. Ma con te comunque. Ma ce l'ha un po' con te. Cos'è? È un lillipuziano che si palesa dappertutto. No, dal niente, è arrivato, ha cominciato a minacciarla di morte da fuori, non capivamo. Scusami, perdonami, ma sai com'è? Purtroppo è il bello della diretta, come si dice, che andiamo a vivere tante situazioni. Dicevo, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Dico, speriamo, insomma, che andrà tutto bene. Ringrazio le mie amiche. Madonna, che dobbiamo fare? Corna, cos'è? Cos'è? Il malocchio stai tirando? Cos'è? Ringrazio le mie amiche per questa serata e speriamo di divertirci ancora. E ecco, basta, insomma, grazie a tutte e... Basta. E questo sembra il discorso da Oscar quando ritirano le gare. Ringrazio le mie amiche per questo bel film. No, beh, ci sta. Basta, a posto così. Ok, allora grazie mille ragazze di essere state con noi e di aver chiacchierato, di aver giocato insieme a noi. E soprattutto auguri alla nostra Ilenia, futura sposa. E in bocca al lupo per il tuo matrimonio. In bianco, ricordatevelo, segnatevelo in bianco, cioè, mettiamo i puntini su lei. Esatto, grazie mille, buona serata, ciao! Ciao.